Quando l'acqua giunge ad ebollizione, aggiungeteci il sale, gettatevi le pennette. Scolate la pasta. Aggiungetevi la crema creata col mixer. Servite una foglia di basilico in cima.